Welcome, administrator. Medium is ready to check in. Allora, benvenuti a tutti. Questo è Medium e sentirete già dal fatto che il tipo di registrazione è un po' differente rispetto alla solita, che è una puntata speciale. È un po' di tempo che non siamo usciti con nessuna forma di podcast, ma per un motivo, perché ci stavamo programmando un incontro con più di un ospite, ma anche più di un ospitante, perché abbiamo una sorta di riunione, una Medium All Star con chi? Domande, tutte queste domande. Allora, scopritelo nella prossima puntata. Ciao, arrivederci. Allora, certo che 2 lire per pagare una valletta per nominarci, almeno facevamo una figura. Sono una valletta. Se non avete ancora capito, qua è un stay takeover con Luca Ricci e Noa Vassalli. Molto più lento del solito, perché questa volta siamo in differita. Cioè, lui è tipo a Dubai, o uno di quelle luoghi villeggiatura stranissimi, vero? Ma sì, sì, dai, col fatto che si sposa è tutto diverso, tutto cambia. Sì, ha già fatto i viaggi di matrimonio. Prima del matrimonio, pensate. Ci manca comunque un ospite da presentare. Si può presentare anche da solo, vero? Francesco, cioè, ciao. Ritmo. Francesco Baralai. Va bene, insomma, siamo sempre 4 amici al bar. Che si dice che questa volta? Abbiamo la scaletta? È tutto pronto? Sì, c'è la scaletta. Però vorrei fare subito un appunto. No, hai notato come il nostro caro Federico Latini ha usato dire buonasera? Buonasera? Vabbè, ma glielo... Certo. Ai. Glielo possiamo lasciare fare, dai. È vero. Ma Federico, è vero, non si dice buonasera. Non si dice buonasera, perché magari per loro è mattina presto, e perché magari sono nel pomeriggio. O magari sono sulla stazione spaziale, qui non ci sono più le scansioni temporali che siamo abituati a noi. E non ci sono nemmeno le mezze stagioni sulla stazione spaziale. Ma spiegatemi, questa gag del saluto non vi piace? La smettiamo? Cioè, ormai sono 6 mesi che va avanti, può anche essere... messa un po' in accantonata. Adesso che ti sei scordato, perché Luca te l'ha fatto notare, la vuoi accantonare. Però già, non sai proprio perdere. Esatto. No, Ma no, ma è che già ieri, che possiamo dirlo cosa abbiamo fatto ieri, Luca? GG. Ma ieri era un anno fa e ieri, ricordatelo. È vero, auguri a Federico Spada ancora, perché ieri era il suo compleanno. Basta. Ok, auguri. Stiamo già iniziando a prendere proprio le frequenze di Medium, proprio le più basse, come il nostro solito. Le più basse. Senti, sì, proprio le più basse grossolane, sicuro. Va bene, andiamo avanti? Sì, dai, allora, la scaletta cita testualmente Mazzi che stiamo giocando. No, io vorrei andare avanti un attimo ancora con spiegone. Ah, ecco. Spieghiamo il perché di questa puntata, no? Cos'è, lo speciale di Natale? Ma sì, dai, è lo specialone di Natale che, insomma, quindi lo spiegone si spiega un po' da solo. È tipo come siamo tutti più buoni perché sta arrivando Natale e quindi ci si raduna tutti quanti. Ed è per questo che bisogna farsi una di quelle domande amnetiche che tutti i giocatori Netrunner si fanno quando arriva Natale. Chi mi regala il playmat? Pandoro o panettone? Pandoro o panettone nel playmat? Che figo. Un playmat con i canditi. Esatto. Ragazzi, 10 minuti che parliamo e ho scoperto che abbiamo una scaletta. Mi sento molto sul pezzo. Molto bene. Vabbè, ma no, da te, insomma, questo è altro. Cioè, ci aspettiamo di tutto e di più verso il basso, sempre. Frequenze molto basse. È stima. È tutta stima. Grazie. Ci piacciono molto. Grazie, ragazzi, ci proverò. Ok, Luca, mi confermi che ha finito lo spiegone o dobbiamo spiegare qualcos'altro? Potremmo spiegare lo spiegone ancora una volta, ma allora, la parola siamo spiegone, un po' ricorrenti. La parola spiegone chiaramente viene da Boris. voi lo sapete, no? Cos'è Boris? Occhi del è un telefilm. Ma lo sa il nostro pubblico da casa o dalla, okay, dal campo in cui sta correndo oppure dalla sua auto? Un Eli, un Eli alt art a chi spiega per primo che cos'è lo spiegone che porca è, vacca che premioni che si danno stasera. Tanto non ce l'ho. Ah, nemmeno io. No, no, tu ce l'hai, tu no. Ce l'hai. Sì, sì, tu Cesco ce l'hai. Ah, quindi Francesco è qua in, in ora di mecenate. Sì, sì, perché in realtà, è facile fare, fare mecenate con le alt art degli altri. Il culo degli altri. No, adesso dobbiamo fare censura anche stavolta. Mettiamo qualche beep. Vai, vai tranquillo. No, ma culo è il nome del nuovo breaker, eh? Esatto. Del Cerbero. Ah, bellissimo, culo. È un fracter, giusto? Sì, sì, sì, decisamente fracter. È facile fare mecenate col fracter degli altri. Ok, vabbè, abbiamo finito? Vai, Mazzi che stiamo... Oh, basta! Mazzi che stiamo giocando, via! Mi tocca fare ritmo, tipo... ritmo, ritmo. Mi tocca fare come, come, come, come Maurizio Costanzo. Boni, bani, ragazzi, boni, state per boni. Allora, vabbè, dai, dici un po', chi Filippi, pensa un po'. Allora... Io ve lo dico subito cosa sto giocando in questo momento, cioè che cosa ho montato. NBN Scorched Earth, di cui tutti hanno assaggiato le doti durante i tornei, e ho montato il buon vecchio Noise che sta, sta andando bene, soprattutto dopo che ho incontrato il Guaina che mi ha spiegato come giocarci. È una buona cosa, trovare nuovi giocatori che ti insegnano i tuoi mazzi. Ah beh, se non c'era lui io continuavo a installare virus e non facevo mai le run. Invece lui mi ha spiegato che esistono le run e che le run servono per andare dentro le mani dell'avversario, dentro il... non so, dentro, dentro, dentro vari parti. Un remoto... Ah no, ci sono anche gli archivi dove devo andare, me l'ha detto Guaina. Ecco, capito cosa serve. Anche... Anch'io ieri sera ho parlato con Guaina e mi ha spiegato la stessa identica cosa. Si vede che ma, lo proprio col scuro. Scusate, sto dando questo, questo nome così, Guaina, Guaina. Ma chi è Guaina? Spieghiamolo ai nostri teleascoltatori. Guaina è l'uomo da battere di questo periodo. È il Black Pixel del 2015. 2014-2015, stagione, esatto, stagione nella, nella nuova stagione Black Pix non è, è, ormai è troppo vecchio, allora ha lasciato il posto a Guaina e a quanto pare gliel'ha lasciato anche meritevolmente, perché insomma vince tutto lui. Pix lo conosco, sta solo prendendo la rincorsa, ragazzi, sta solo prendendo sì, la rincorsa. Cioè, in realtà è tornato ai suoi, al suo vecchio amore di gioco, ovvero la scopa. E sta facendo dei grandissimi tornei, qui sta vincendo un sacco di bianchini, ma ritornerà nella stagione primavera-estate. Questa è la tipica situazione, questa è la tipica situazione dei tipo dei film con i supereroi, che tipo arriva Guaina che impazza, distrugge tutti, allora noi con la tirata di culo dobbiamo andare a bussare all'ex campione che però aveva abbandonato tutto, tipo andiamo da Paolo, cioè, dai Paolo, mi stai dicendo Dragon Ball, insomma. Sì, praticamente ragazzi, posso dire una cosa? Io ieri sera ho accompagnato a casa Guaina perché dovevamo fare la strada insieme, via dicendo. Per un certo momento ho pensato di lasciarlo a bandenere da solo, tanto è magrolino, gli davano una mano di botte e ce lo levavamo dalle scatole. Poi però stava finendo il discorso, non mi sono sentito e l'ho accompagnato fino alla metropolitana. Però l'ho lasciato sui gradini, non so se è arrivato a casa. Forse la natura l'ha preso. La fauna della metro l'ha fatto su. Ricorriamo a questi mezzucci per battere i nostri avversari. Molto bene. Wayland insegna che tutto è permesso. È vero, è vero. La prossima volta mi riempio le tasche di sabbia al torneo e gliela lancio in faccia al mio oppo. Senti, ma cosa state giocando voi? Che mazzi state giocando? Beh, scusate, non ho sentito. Allora, innanzitutto, a che gioco stiamo giocando? Netrunner. Netrunner si compone di due tipologie di mazzi. Quello del runner, da cui anche poi il nome originale, Netrunner, sai, no? Runner, e anche la corp. Voi, che mazzi corp, che mazzi runner state giocando? Niente. Parlo io? Niente. Parlo io? Parla Noah. Parlo io perché non vi sento più, così almeno state un po' zitti e non mi rimbomba. Allora, sto giocando come runner anch'io il Noise classicone che non so giocare, adesso col tempo imparerò. E invece come corp ho ideato un mazzo che si chiama Calabrone, perché non si capisce come faccia a vincere, quindi come il calabrone che non si sa come fa a volare, anche questo mazzo ha questo nome. Ed è un paciocco che stupisce l'avversario, e ieri sera contro Guaina sono riuscito a vincere con il mio corpo, quindi... Cioè, solitamente la prima partita la vinco sempre. Poi vi posterò una lista un giorno. Ma ci puoi dirci, è possibile sapere anche, tipo, che ne so, la fazione, oppure è troppo segreto? Penso che mi hai chiesto della fazione, perché adesso ti chiami... questo calabrone. Ah, ok, scusatemi. È un HB... identità base, e fondamentalmente gioca tutti quanti gli ice classici abbastanza, come dire, ah ecco, mi dicono dalla regia che non si sente più nulla. No, io sto sentendo. Vabbè, io... e ti sto anche registrando, quindi puoi... io continuo a parlare. Allora, gioca fondamentalmente come ice il Codegate Viperino, gioca gli eli, gioca i wraparound, e fondamentalmente non serve per ingolosire il runner e farlo correre. E poi cerca di fare praticamente un unico server remoto in cui ci gioca dentro 872 asset, upgrade, regioni e via dicendo. Quindi gioca dentro che so, il Will of the Wisp per mandare a casa gli Icebreaker, gioca Ash per proteggersi e via dicendo. Poi a un certo punto gioca la Sansan e fa una sorta di fast advance. È un slow fast advance. Ok, e qual è la parte, strana che dovrebbe tipo... Non vi sento più, ragazzi. Ok, riproviamo. No, ti stavo dicendo, qual è la parte, diciamo, che sorprende l'avversario? Perché mi hai detto non si capisce perché, ma mi hai spiegato un po'. Fondamentalmente è un mazzo attendista, nel senso che facendo un server con tanti upgrade, un server unico con tanti upgrade, che potrebbero essere un po' più qualcuno un po' violento, altri invece solamente atti a farti spendere economia. Fondamentalmente a un certo punto l'avversario dice: ma perché devo continuare a correre, che tanto quello lì non sta facendo niente? Mi preparo il mio rig, mi preparo tutto quanto la mia board e poi attacco. Quando io vedo che si tranquillizza un attimo, gli scoro le agendine 3-2 di HB. Okay, come domandona per HB, accelerated beta test, lo scori, cioè ne attivi l'effetto o rinunci? Rinuncio. Ok, per capire la tipologia di mazzo. Ma rinuncio in realtà a tutti quanti gli effetti. Vabbè, ovviamente gli effetti che possono esserci sono scorando l'agenda, prendo dal cestino una carta, scorando l'agenda giro tre ice, quelli lì non li gioco mai, non tendo mai a over pipottare la carta. Le altre agende che gioco sono la NAPD per tutela personale. Esatto, per tutelissima personale. E poi un... oh Jesus, stavo decidendo se giocare, continuare a giocare quella che sto giocando adesso, che non mi viene il nome, che fa perdere due click all'avversario. False, la false lead, bravissimo. Bravissimo uomo senza volto, che non so chi è che è stato a parlare. O il Chronos Protocol per... devastare il cestino del runner. Devi un po' annusare il meta e vedere quanti noise ci saranno ai prossimi tornei. Secondo me ce ne saranno tantissimi. Solo in questa discussione ne giocano due. No, vabbè, non facciamo testo. Fra, cosa giochi? Che mazzi stai giocando in questo periodo? Allora, corporazione, ho deciso di rinnovarmi totalmente, quindi ho tolto gli Sherlock dal mio HB e ho messo due architetti. cioè, cambiando... per la serie cambio radicalmente, rinnovamenti, ha tolto due carte e ne ha messe altre due. Sì, sì, per sottolineare la cosa mi sono fatto biondo ossigenato e ho cominciato a depilarmi completamente proprio. E... ma sono così gli architetti da voi? Pronto per la Donis Campaign proprio. Esatto. Beh, bisogna pensare come pensa il Mazzon. Quindi... proprio. Esatto. No, sciocchezza a parte, c'ho sempre il canonico KB Standard Slow Advance, la cui forma è quella, il cui concetto è quello fermo praticamente al 2012. Economia asset, nel momento in cui riesce a mantenere controllo, soprattutto economico, e fare un certo tipo di click compression, cominci a scolare le agende o col Biotic o con la Sansan. Minchia Luca, madonna, mi sembra sentito parlare un professore, di qualcosa pure te. No, il professore manca, ragazzi, il professore manca, altro che... Lasciamolo fare. Però con la dolce aggiunta degli architetti, che più li gioco più mi rendo conto che ho completamente sbagliato a valutare quella carta, pensarla, cioè nel senso già mi sembrava forte, in verità è forte in una maniera completamente diversa, permette di fare un certo tipo di gioco che si conforma talmente tanto alla situazione che è molto difficile da stimare, da ridurre in guadagno click o pescaggio carte o discorsi simili, devo ancora definire esattamente, però cavolate a parte, soltanto l'aggiunta di quelli lì ha cambiato completamente il concept del mazzo, cioè molte partite le vinco come Iceless orizzontale soltanto perché riesco a mettere giù un architetto e a fare in modo che lui non abbia il breaker per proteggerlo. È veramente incredibile come carta. Invece per il runner, dopo aver dichiarato la morte e celebrato il funerale con tanto di necrologi pisciata sulla tomba di Tenma, del quale sono rimasto molto molto soddisfatto a Verona. Stacchetto! Can Tenma, do you remember the time? Can Tenma... A posto. Voglio morire. Questa la mettiamo nella prossima balia. Certo, assolutamente. Esatto. E sono passato ad una più canonica Kate che si confà molto di più a qualsiasi cosa, ragazzi. Ormai è praticamente impossibile cercare di prevedere un meta, nel senso puoi aspettarti un certo numero di NBN Fast Advance e poi il resto è un boh enorme. Coltellino svizzero Kate, sì, McCaffrey. Totale, totale. Chiaramente con le piccole chicche aggiunte dalle ultime espansioni, tipo il buon Astrolabio e robe simili, ma fondamentalmente il concetto è Parassita, Atman, Inti, economia con i prepaid, cazzatine varie, e poi vedi anche cacchio succede mentre giochiamo. E comunque dentro il coltellino svizzero di Chuck Norris c'è MacGyver, così, ve lo volevo dire. C'è proprio il MacGyver, ma sono davvero così noioso che c'è bisogno di stemperare con queste battute agghiaccianti i miei discorsi? È davvero così terribile? Sì, non ci è dato saperlo con sicurezza. No, ragazzi, dovete capire questo, che io faccio il serio quando sto da solo a parlare di meta, le carte nuove, questa verrà giocata, questa non verrà giocata. Poi, la volta buona che vi becco con tutti quanti, mi permetto di fare il cazzone e voi mi dovete riprendere e dire: ah no, Fede, basta fare il cazzone, parliamo di... Ma no, ma assolutamente, è passata la nostra parte del lato scuro, abbiamo i biscotti. Ma a me piacevano quelle battute. Il lato scuro. Il lato scuro della forza. Boh, Luca, te cosa giochi di bello? Allora, partiamo con una piccolissima premessa. Io praticamente dopo aver vinto il nazionale sono andato in crisi. Crisi completissima, nel senso che non c'era più un mazzo che mi soddisfacesse né dal lato corpo né dal lato runner. Praticamente man mano che uscivano le carte provavo diversi mazzi. Lo provavo per due serate, anche una sola, e poi li smontavo perché non c'era neanche uno di questi che mi soddisfacesse a livello personale e per anche una serie di motivi competitivi, ecco. Complice anche il fatto che gli ultimi tornei non li ho partecipati perché li organizzavo. E sono arrivato ad oggi forse ad avere una forma, ovvero con Quetzal ho trovato quella cosa che mi mancava del runner, cioè un qualcosa di diverso proprio che mi dà soddisfazione. Quetzal con la sua abilità dell'identità e carte come Ludovic oppure Jean-Louis David, esatto, esattamente lui, con tutti i vari virus che non essendo con noi sembra un po' strano giocare eppure funziona lo stesso. K-Hall, Mirage, beh, quel genere di carte che vanno sotto la categoria di mestizie. Sì, esatto. E Quindi con David si passa, basta avere un E3 feedback e si passa tutte le barriere. Quella balenottera azzurra che cavalca nei cieli. Non so se avete capito di Kestrel che sto parlando. Non dirmi lo spacca con Nate dei Crimini. No, pensavo dicessi la Leviathan. Ah, no, ok. No, no. Sì, però sì, no, Darwin c'ha senso, insieme a David sono perfetti. Ecco, esatto. E in più, una cosa che mi ha fatto proprio dire wow, questa è proprio il mazzo che mi piace, è le supplier entra per un numero di risorse hardware molto alto da giocare, proprio un numero di kilo cash infinito. E non è criminal, cioè, Ok, dall'alto della nostra conoscenza delle carte ci siamo girati, io e Fede ci siamo guardati con una faccia tipo che cazzo è The Supplier? Ma come che cazzo è The Supplier? No, The Supplier lo sa pure lui cos'è e va bene, ma la domanda è... No, io no. Spiegatelo anche per il pubblico. Dai, Supplier è quello che lo giocavi anche tu nel mazzo, ci installo un hardware o una risorsa all'inizio. È fortissima The Supplier, è fortissima! Scusate, ma io la gogolo. Scusate, no, aspetta un attimo. Ma l'influenza, hai detto troppa roba blu. No, è 3 The Supplier. No, è 3 feedback, 3 The Supplier. E il cash? Dov'è che va l'accento su Supplier? Sulla R. No, non il chilo cash sarebbe i crediti. Ah, no, okay. Il cash non ce li ho. Ah, fighissimo The Supplier. Ecco, è arrivato. Quella là, ma ti hanno giocato lag time contro? A me sembra quello di Community, il dottor Chang lì, come cacchio si chiama? Il tigrocino, benissimo. E vabbè, insomma, è un mazzo che mi sta piacendo molto per come si gioca, perché è molto champagne, però è solidissimo sotto aspetto economico, che quindi è uno delle pochi mazzi che ho visto giocare contro Wayland abbastanza facilmente, perché si poteva permettere di fare quei tanti soldi che dai, avanti, tracciami, dai, su, così. Ma lo Inject lo giochi? No, assolutamente no. Io sto cercando un modo per riuscire a giocare Inject, ma l'unica cosa che mi è venuta in mente è giocare Retrieval Run, cioè butto programmi nel cesso e pesco Retrieval Run con Inject e poi lo gioco, però insomma... Mi sembra un po', come dire, me la canto e me la suono, nel senso, sì. un po' fine a se stesso. Assolutamente. Mentre per il corpo sono leggermente in alto mare, ho montato un Missile Division con delle gravissime E qui no, va in panico, non ha più pari di chi sia. No, io... poi me le fai vedere. Sì, ecco. E economia molto più solida, appunto, perché ha giocato con tante carte da 0-1-2, delle mestizie assurde che ti possono frattiniare senza ritegno, però ancora non è il mio mazzo. Penso che tornerò a un HB on Wayland dopo aver montato anche un NE con i dedicated response team goduriosi. E qui Alex gode tantissimo perché è il suo mazzo da un po' di tempo a questa parte. È molto bello. Però niente, io sono ancora in col corpo sono ancora in crisi nonostante tutti i corpi vincano, ecco. Cioè l'unica cosa che sono sicuro è qualsiasi corpo che ho montato e ho giocato vince praticamente sempre. Ah, che modesto il ragazzo. No, beh, vince inteso. Non che io vinco. Il mazzo vince. No. Sì, stai semplicemente denunciando il meta attuale che diciamo sbilanciato verso la sì, porta. No, più che altro state per montato dei mazzi solidi, ma che alla fine non è il gioco. C'è più sale che interessante, ma in realtà mi piace più vedere un po' The Foundry che cosa riesco a tirarci fuori. Non c'era feeling. Esatto, non c'è tanto feeling. Io sono un po' una puttana sulle corpo. Sono sempre. Faccio girello su quelle. Guarda, io invece sono troppo tempo che sto girando con quella NBN che ti scorcia. NBN The World Is Yours con le tre scorched come unica influenza. E siccome è tanto troppo tempo che giro, l'effetto sorpresa è leggermente svanito e ho provato il Ginteki che è arrivato secondo ai mondiali RP, quindi sì, No, no, Personal Evolution, quello che ti fa i danni. Ah, sì, no, sempre e non ci credevo minimamente, cioè, mi sono presentato con questo approccio qui. Come cazzo ha fatto questo arrivare secondo e quindi a vincere un casino di runner con questo mazzo? Poi l'ho provato e effettivamente, pur non sapendolo giocare, comunque il runner deve fare delle scelte stronzissime, tipo se non runno sono nella merda, se runno sono nella merda, e crea un sacco di situazioni win-win nelle quali è chiaro che puoi trovarti a dover concedere molto in termini di punti agenda, ma dal punto di vista dello stress del runner è veramente eccezionale, nel senso che arrivi molto molto vicino sempre a fargli il decking del mazzo, quindi lui si ritrova a non poter pescare più carte e praticamente è come se non potesse più rubarmi agende, perché se tutte le volte che pesca carte gli faccio un net damage, o è l'ultima agenda oppure muori, e è veramente impressionante. Comunque boh, cioè, insomma, nel senso, se sei in crisi provalo perché è illuminante. Sì, sicuramente proverò anche quello, perché comunque intanto bisogna girarli. Sì. Io finora non, ecco, fortunatamente con l'esistenza di Octagon non devo star lì a fare smonta rimonta. Quelli che mi intrigano me li provo, se vedo che dopo averli provati continuano a intrigarmi magari li monto. Anche se in realtà per la mia disponibilità di tempo non conto di partecipare ai prossimi tornei, deve succedere una convergenza particolare per riuscire a farmi venire in un torneo in giro. Ma neanche Bologna, addirittura. Bologna sì. Facciamo del nostro meglio, no, però sì, Bologna ci devo essere per forza, quindi la mia famiglia deve capire. Onestissimo. Sì, serve proprio per supportare. Senti, a parte la scarsa affluenza, com'è andato il torneo recente che hai fatto? Allora, il torneo recente che ho fatto, niente, è stata una tranquillissima giornata, perché comunque con 6 giocatori soltanto ci si sono dati schiaffi in allegria, ecco, con poca tensione e niente, Guinness è riconfermato vincitore, un pochino più tirato perché comunque altri giocatori hanno... Avevamo anche 3 turni di Svizzera, non è che potevi dire troppo. No, infatti, è cioè, per questo che dico comunque... Io punteggio non l'ho visto, ma era solo, ha vinto per strength of schedule oppure perché aveva più punti? Ha vinto per più punti, ma di 2 sopra il secondo. Ma poi in realtà abbiamo fatto un... Dopo i 3 turni di Svizzera c'è stata una sorta di finalina tra il primo e il secondo, che mi ha visto rosicare perché ovviamente ero terzo per rating, e niente, no, poi se la sono giocata e lì ha portato a casa il ricco premio. Figo, fighissimo, sì. Complimenti veramente per le carte, siete troppo fighi, siete troppo avanti. Ve lo chiedo per favore, organizzate in una location più raggiungibile, io c'ho una foto, mi viene barzotto ogni volta che mettete su un torneo, ma non ce la posso fare. Vabbè, ma allora facciamo effettivamente... Sai cosa possiamo fare? No, lo organizziamo a Senigallia. Ma no, effettivamente Milano è fuori dalla strada del sale, è difficile da raggiungere. cioè... Senti, non no, Milano è facile, Vigevano che è difficile. Ma non è a Vigevano il torneo, è ad Abbiategrasso. Sì, Abbiategrasso, scusami. Cioè, è raggiungibilissima da Milano in 20 minuti, mezz'ora, con i mezzi pubblici. Vabbè. Poi te lo racconto, dai. Sì, apri Google Maps. No, non mi dite così. Mi ero pianificato durante il viaggio la prima volta. Ci volevano 4 ore e 20 per arrivare, di cui 2 ore e 50, cioè 2 ore e 20 per arrivare a Milano. Il resto da Milano. Ci vuole la navetta. Allora, ci vuole, che dici? All'inizio, alle 9 e mezzo, pure non so quando cominciate. Tipo, cominciamo alle 10 e mezzo, alle 9 e mezzo in stazione c'è una navetta che prende tutti i netrunneristi e li porta al posto. Sì, esatto, una cosa del genere bisognerebbe fare. e abbiamo dei giocatori a Milano, vediamo se riusciamo a fargli fare la selezione aperta. Cazzo! Potremmo puntare a farne uno a Piacenza. Piacenza ci sta, perché poi quelli di Parma ti ci vengono facile, noi per noi non è un problema. Dobbiamo trovare qualcuno che ci ospita a Piacenza. Ma c'è qualcuno di Piacenza che gioca? Beh, ce lo diranno dopo aver ascoltato. Lo diranno nei commenti di questo podcast. Voi, giocatori di Piacenza, fatevi sentire. Sulle mani, Piacenza! Oh! Fatevi sentire. Oh mio Dio, cosa succede? Scusate, per me è giunto il momento di terminare qua la registrazione. Bene. No, Luca Ricci, no. No, ragazzi, continuiamo, soldo per la gloria. La situazione si sta facendo troppo casino. Andiamo avanti punto dopo punto, scaletta dopo scaletta. Che fine ha fatto Simon San Diego? Che cazzo vuol dire? Entriamo di proprio a gamba tesa in questo podcast, che è una delle nostre rubriche preferite. Che ne dite? Guarda, sapete, io ho letto nella scaletta sta roba, ho detto sarà una roba di loro, faccio fare a loro. Ma come? Non lo conosci? Non conosci? Esatto. Cuoco e tu, Federico. Non pervenuto. Che fine ha fatto Simon San Diego? Che fine ha fatto Simon San Diego? La nostra rubrica più di successo di Hostile Takeover, ovvero noi diciamo un paio di carte, naturalmente con i nomignoli che gli dà Nova, perché naturalmente lui non sa i nomi delle carte, e voi li dovete indovinare. L'indovinello, e chiamo l'indovinello. Ovviamente non ci faremo mai lavorare al marketing, Federico Latini. Giustamente, non me lo merito. Ovviamente, visto che voi siete avvantaggiati rispetto agli altri, non ci sono premi. Pam. Va bene, dai, allora siamo pronti per rispondere, vai. Allora no, è tutta tua. Allora, in realtà, ovviamente, vabbè, come faccio a dirglielo che non ci siamo preparati una ciolla, Luca Ricci? No, dai, che è un po' come tutte le puntate di Hostile Takeover, naturalmente. Ma oh, ragazzi, è stata una giornata dura al lavoro. Vabbè, allora, pensiamone una. Beh, una è la fantastica Gardaland. Non dovete rispondere subito. Ma io lo so perfettamente chi è Gardaland. Lasciaci pensarci un secondo. Ok. Vabbè. E l'altra? Giocatissima poi a Gardaland. Cioè, ne vedo un casino. Beh, te ridi, tanto fa divertire grandi e piccini. E l'altra invece è Occhiettone, da non confondersi con Occhietto. Occhiettone, te ce l'hai in mente? Mi sa di sì. Va bene, allora io vado con Gardaland. Vai. Gardaland chiaramente è Exploratory Romp. Ok, e devi dire anche Occhiettone a questo punto. No, Occhiettone lo deve dire Francesco, perché... No, cioè ha un solo vincitore tra voi. No, giochiamo per cercare di massimizzare le risorse. Cioè, facciamo click compression, esatto. Cos'è sta cosa? Avanti, rispondi. Ah, vabbè, allora provo con Occhiettone, aspetta, fammi venire in mente Occhiettone. E l'Alze Blocchi Protocol. No, non può essere quella, è troppo nuova. Allora, Occhiettone pop-up window. Ah, sta facendo mind game sull'avversario. No, zitto, è pop-up window? Chiuso. Esattamente no. No. Ok, zero punti per Federico Latini. Ma come zero? Nemmeno esploratori romp? Ma cazzo, ma... Vabbè, proviamo l'altro concorrente, poi vediamo. Secondo me no, è la prima volta che sento questa... Secondo me no, è la prima volta che sente questa carta, Esploratori Rom. Esploratori Rom, aspetta che la Google. Che merda. Vabbè, dai, frate. Il prossimo concorrente viene da dove viene? Vengo da Bologna, sono molto... Come si chiama? Mi chiamo Bologna. Francesco. E vuole salutare a casa? Ciao mamma. Ciao. No, io non ho la più pallida idea domanda. Di che cosa sia Gardaland, quindi ho già perso. Dai ragazzi! Gardaland sarà un posto, però non mi viene in mente quale può essere Gardaland di Ma ragazzi, mi state pigliando per il culo, veramente non sapete qual è. Boh, sarà Sunset City Grid. No. No. Allora, occhiettone, facciamo, mi sa che la sai, prova a dircela, dai. Enhanced Login Protocol. Benissimo, Gardaland, dai che già puoi fare, dai che puoi farci. Gardaland, perché Gardaland? Perché è l'immagine che sembra un parco di divertimenti? Assolutamente no. E 5, e 4, e 3, e 2, e 3, Draco, l'altro, vabbè. Sì. Cioè, vabbè. Draco era Fortuna Drago. Vabbè, ma Gardaland c'è il simbolino che è un draghetto, ho detto, boh, sarà Draco. Ma no, ragazzi. No, Draco è cosa, è il Fortuna, cioè, Drago. Vabbè, avete a disposizione l'aiuto da casa, se volete, potete chiamare a casa. No, non è Gard, l'ice. Guard, Alang, no, agghiacciante, no, no. Okay. Io comunque allora, no, non la risolviamo. Ma come non la risolviamo? Ascoltatori. No, mi lasciate così. No, vabbè, dai, mi prendono le palle, devo saperlo. prendo i faldoni. No, allora, aspetta, tu ce la dici e poi la bippiamo. No, la bippiamo. Sì, okay. Sì, dilla che la bippiamo. Allora, possiamo dire intanto che... Sì, che occhiettone effettivamente era l'Enhanced Login Protocol. Bravo, bravo. Come potete notare, non riesce a pronunciarle, quindi naturalmente lì si dà. Però ragazzi, questa qui la conosco. Tutte le volte che la gioco urlo occhiettone, effettivamente questa ci sta. Ma è l'altra, ragazzi, davvero, non avete capito? Sì. Vi do un aiuto. Quando andate a Gardaland vi dovete portare un sacco di soldi, di più degli altri. Vi importate addirittura 10. Ah, ho capito. Tu hai dei problemi, no? Esatto. Ma non doveva bipparla. comunque Guaina c'ha la fissa di Gardaland. Sì. Va bene. Insomma, l'abbiamo detta ma non l'abbiamo detta, quindi dai. Nessun vincitore comunque. Comunque, Gardaland battuto il gioco. Esploratori Romp è molto più Gardaland della tua Gardaland. No, ognuno vive Gardaland in Romagna. Esatto. Io ci vado perché mi piace fare la coda. Esatto. Quando vado alle poste sono lì che rido come un pazzo. Tra l'altro stavo pensando che io e Fede siamo talmente nerd che non diamo neanche i soprannomi alle carte, cioè non credo che ci sia qualche carta. Sì, ma effettivamente... Siete così nerd che oltretutto li chiamate col doppio nome, sia il nome in inglese che il nome in italiano ogni volta? Sì, gioco olio su ghiaccio chum. Olio su ghiaccio, sì. E dovete dire anche il nome in elfico. E se quando lo reggi non citi il flavor text, ti si derezza subito. Wow, c'è proprio hardcore, così. Io ce l'ho sempre rezzato. Cosa sono questi intermezzi telefonici da 144? Va bene, allora dichiaro ufficialmente chiusa Simon San Diego, grassa sconfitta del duo bolognese. E passiamo alla quarta parte della scaletta, che sono i commenti sui mondiali e i mazzi. Prima non vorremmo fare un intermezzo musicale. Vai, allora esatto, vai con l'intervento musicale. Qual è? Quest'oggi ho scelto io la musica, quindi sarà alto successo tipo l'altra volta quando c'erano i Beehive. Però ho fatto dei copia e incolla a Luca Ricci, quindi non so minimamente come si chiamano le canzoni. Vai tu, Luca Ricci, DJ di Netrunner. No, Runner è troppo lenta, io l'ho sentita veramente pallosa. Non possiamo cambiarla con il link. Basta che vai due link più sotto e c'è la mia proposta. Poi dopo ti dico che cos'è quella proposta. Thank you. E questa era la mia proposta di Runner. So che mi odiate perché fondamentalmente vi ho fatto appena ascoltare del grande rumore, però questa canzone ha una storia. Questa canzone è di Aphex Twin, si chiama A Mathematical Equation, ed è una canzone che lui ha creato mettendo dentro una sorta di sorpresa, perché se questa canzone tu la ascolti con un oscilloscopio, cioè no non con un oscilloscopio, con un sì con un oscilloscopio, con un oscilloscopio, sì con un oscilloscopio, fondamentalmente vedi l'oscilloscopio serve fondamentalmente a trasformare in immagini questi suoni. Alla fine c'è un pezzo in cui lui ha messo la sua faccia nell'oscilloscopio, e quindi quando tu ascolti la canzone a un certo punto compare la sua faccia con questo rumore stranissimo, e quindi lui è riuscito a mettere la sua faccia dentro la sua musica, e questa cosa è geniale. Questa cosa io l'ho scoperta tipo alle 2 di notte a casa di un mio amico, ci siamo messi lì, abbiamo scaricato l'oscilloscopio, abbiamo fatto girare il pezzo, e quando è uscita la faccia ci siamo cagati addosso, abbiamo chiuso tutto e siamo andati via. Oddio, era un oscilloscopio costruito su un vecchio cimitero indiano. Esatto. Noah, ti confermo che Fede recita Flavor Text in elfico quando giochiamo. Comunque questa scelta musicale è stata molto nerd, io posso... A votate. Anche per me. Momento scaccia figa, yeah! Va bene, passiamo subito alla proposta della Corp, che così scacciamo anche l'altra parte di... No. Mamma mia. Ma non puoi fare un bloccone musicale, sennò... arrivano tutti sudati i nostri ascoltatori alla fine. Non ho fatto mica il corso, esatto. Non ho fatto il corso di podcast, io vado a braccio. Tu sei, ma perché tu sei cresciuto sulla strada del podcast. Esatto. Quello, sei molto più duro. Non sono un accademico del podcast. È molto più duro. Basta! Cesco ha preso sta piega, adesso non no, ma anche lui è cresciuto sulla strada del podcast, però quelli sono di lampioni. Allora... Words. Vai, parliamo delle Words. Allora, il nome di Federico ha tutti i numeri del caso, vero? Sì, avete visto la finale in diretta? Sì, sì, anche era due. Così per la diretta, ha giocato quella aspetta ancora Castanezzan, insomma, praticamente è atto in base. No, pessimo. Io ho scoperto ieri che c'erano i Worlds. A posto. Pensavo fosse un programma di Microsoft. Microsoft Words. Microsoft FFG Words. No, vabbè, allora io me la sono vista in diretta ed è stato, ragazzi, prendetemi per uno leggerino, è stato molto emozionante. Nel senso che comunque c'era due mazzi che non ti aspetti, cioè due Jinteki a confronto. Poi vabbè, lato runner niente di emozionante, perché comunque è Andy. Però i due la prima partita, quella nella quale arrivava, diciamo, dal bracket con una loss, il tizio ha giocato sto Jinteki che io non avevo mai visto, solo net damage, e quello che poi sarebbe diventato il vincitore del torneo, runnava praticamente ovunque, senza distinzioni, cioè lui qualsiasi cosa mettevi giù lui ci rannava sopra. Si è beccato i due psychic fields, ha pescato su anche qualche agendina, è riuscito a non morire in tutto questo, però nell'arco di penso 20 minuti il suo mazzo era completamente terminato e insomma gliel'ha data su, e l'altro l'ha ucciso di net damage. Sì, vabbè, ma cosa sono questi americani che si lanciano così tanto? Vabbè. No, secondo me, no, guarda che se non conosci quel mazzo lì è probabilmente la strategia migliore, nel senso che mortifichi qualsiasi forma di bluff, cioè non consenti all'avversario di dire ok, ci metto giù un'agenda perché l'ho mortificato a sufficienza che lui non mi ci ranna più nei remoti, col cazzo. Sì, però non è servito a nulla, perché se non puoi rifarti il buffer di carte, cazzo fai? Se non avesse pescato sufficienti trappole, probabilmente sarebbe riuscito a metterlo in una situazione tale per cui si riempiva la mano di agende, oppure le metteva giù e lui gliele scorava e avrebbe vinto il runner. Al contrario, invece, ha avuto la prontezza di spirito di mettere giù anche gli snare, che solitamente te li tieni in mano, proprio perché aveva visto che l'atteggiamento era quello di run ovunque, va bene, allora ti metto gli snare. Vabbè, ma non c'è molto merito nel giocatore corp qua, Se quello lì corre, cioè gli metto giù anche le mutande di mia nonna se ci salta sopra. Se sei contro Jinteki e definisci un pattern che non sei in grado di cambiare, è chiaro che poi dopo Jinteki si conformerà a quel pattern e quelle famose trappole finiranno giù. Cioè il fatto che lui ci sia schiantato sopra riconferma semplicemente il fatto che non ha cambiato strategia, dato un'impressione, ha mantenuto quell'impressione, la corp ci ha giocato su. Fine. Cioè non volevamo demolire il tuo sogno di queste belle partite, però a me così non piace, però adesso gusti. Io personalmente voglio subito mettere un inciso: a me è piaciuto molto invece la copertura che è stata data da questo evento, e a me ha fatto un po' sognare, perché è sembrato in un certo aspetto come quei grossi tornei di Magic in cui c'erano telecamere, commenti, la gente che seguiva da tutte le parti. Donne in bikini. Sì, i commenti su Twitch erano veramente insopportabili, soprattutto la fissa della sedia, perché quando c'era il fuori onda si vedeva sta sedia, e quindi commentavano dalla mattina alla sera tipo la sedia avrebbe giocato meglio, la sedia vince i tornei a mani basse, abbraccioli bassi. Perciò li passo, perfetto. No, comunque c'è stata una copertura molto molto bella, un interesse, la cosa che mi è piaciuta di più, che mi fa ben sperare sempre per il futuro, cioè che si continua a espandere. E poi la recente acquisizione, adesso io la chiamo acquisizione ma in realtà è un merging, comunque lui è uno style takeover. No, non è uno style takeover, lo style takeover lo faranno prossimamente, e saprete su questi schermi a chi lo faranno. E c'è Frank in questo momento mi sta guardando. c'è Frank in questo momento mi sta guardando malissimo perché so delle cose e non gliele dico. Vado a eiaculare di là. Ok. Ah, forse ho capito. Ma fai pure di qui, non è un problema. No, vabbè, allora, l'Asmodee sta facendo acquisti, come avete visto, è partita con Days of Wonder, adesso ha annunciato Fantasy Flight, non ha annunciato un'acquisizione ma un merging, che po' diverso. Però. Beh, perché doveva acquistare tutte le azioni, forse non ce la faceva. Boh, non lo so, non posso saperlo. Però ecco, sicuramente potremmo aspettarci una copertura maggiore sul territorio europeo, proprio in virtù di questa cosa qua. Esatto. L'Italia probabilmente riceverà un bel boost da questa serie di cose per eventi futuri che avverranno, insomma. Ne vedremo, insomma. Speranzosiamo, insomma. Sexy. Yay. A posto. Fra ormai è entrato in modalità 144, non riesco a sì. Non ho capito. Beh, come si fa a cambiare la modalità e niente. Dovresti cercare di qualcosa. Comunque, invece tu su Words cosa ci vuoi dire? Queste sono state le tue sensazioni. No, Fra in questo momento è andato via. No, aspetta, sto tornando. Le mie sensazioni? Del Words, io mi sono solo una partita, sono onesto. Sono un periodo un po' agghiacciante. Non hai seguito nemmeno le vicissitudini. No, io parto prevenuto. Sostengo che gli americani giochino di merda. Mi sono convinto di questa cosa e non mi interessa guardarli. Va bene, però comunque è stato l'evento più importante. Cioè, parliamone, per esempio, c'è stato il campione tedesco che a quanto pare ha trassato. Anche questa cosa è fighissima. Cosa ha fatto? Scusa. Ha citato quanto pare il campione tedesco che è andato al Worlds. No, che cazzo dici? Sì, quanto pare. No, questa non la sapevo. Scoop! Sì, no, allora la cosa non è ancora. È stata un po' fumosa perché c'è stato ritrattato. Però a quanto pare deve aver citato su una giocata che però era ormai passata perché il judge l'ha stato chiamato. Quindi com'è stata la situazione? Sì, sostanzialmente ho fatto un quarto click, che era un secondo avanzamento che non avrei potuto fare chiaramente, avanzamento, e sostanzialmente il judge se n'è accorto, anziché dare il game loss, siccome non erano state fornite nozioni che potessero compromettere la partita, io immagino, però c'è una grande discussione in merito. E le nozioni che sono state fornite era semplicemente che in mano la corporazione avesse una carta installabile e avanzabile, quale che fosse, nella fattispecie si è rivelata poi essere un'agenda. E siccome l'errore era della corp e l'informazione passata con la corp era a beneficio del runner, hanno deciso di fare l'undo. Certo è che questa azione ha spinto il runner immediatamente dopo a runnare il quarter, anche se non sarebbe stata una scelta in alcun modo giustificata, se non di puro impulso, senza questa informazione, e lui è flatlineato in quell'azione lì. Il che pone, pone parecchie questioni in merito, ecco. No, tutto a quanto pare è stato anche gamato più volte su Octagon a barare, cioè rendetevi conto. Stiamo facendo proprio spettegolezzo, non si fa. Però insomma... con prove screen di sta cosa, quindi ci sono anche i personaggi, ecco, che sono arrivati in questo Worlds e varie situazioni, come dovrebbe essere in un torneo di 200 e passa persone. Ma ragazzi, cioè, il tizio olandese che ha barato al mega super torneo di... Beh, lì stima di totale. Di Ticket to Ride. Ah, il Ticket to Ride, scusa. No, già, è vero, fantastico. Cioè, no, raccontate. No, Ticket to Ride lo conosco anch'io. Se uno bara al Netrunner no, come Ticket to Ride sì. No, se uno bara alla finale di Ticket to Ride vuol dire che non ha niente a che vedere con... la parte economica ha solo a che vedere con non so, la patologia. Non ho parole, cioè. E il barone al torneo di Magic? Vabbè, ma Magic ci sono i mezzi soldi. Ma quella è stima, ragazzi, perché uno che riesce a barare ad un torneo così grande e ha le palle di barare sotto le telecamere, quella è stima, ragazzi, è stima, si prende il rischio fino in fondo. È Stimac! È Stimac! Sì, è sempre in tempo. Ma perché cosa ha fatto di bello? Sostanzialmente questa persona qua barava nella mescolata. Praticamente in Magic c'è, e credo che ci dovrebbe essere anche in Netrunner, o quantomeno dovrebbe essere un'opzione, sostanzialmente in Magic la regola della mescolata è questa. Se io mescolo il mazzo, ti do a te avversario l'opportunità di tagliare o rimescolare il mazzo. Se tu decidi di tagliare, a quel punto io ricompongo il mazzo sulla base del tuo taglio e immediatamente il mio mazzo non può essere più manipolato in alcuna maniera. Diversamente, se tu decidi di mescolare, devi dare poi a me l'opportunità di tagliare. Questa persona cosa faceva? Prendeva il mazzo dell'avversario e lo mescolava. Mescolando, con il pollice sostanzialmente teneva le carte praticamente orizzontali e mescolava, guardando però l'ultima carta. Con il pollice faceva attenzione a far scivolare l'ultima carta, se non era una terra, in cima sostanzialmente. No, se era una terra, scusate, in cima. Il che cosa voleva dire sostanzialmente? Che dopo quella tagliata il grosso delle terre, almeno 15-16, finivano forzatamente in mezzo al mazzo, dando per forza un mulligan all'avversario. Il che sostanzialmente in Netrunner è molto più difficilmente applicabile come barata, certo. E non potrebbe funzionare anche se si prendessero le agende, perché in verità ogni carta è funzionale in Netrunner. Però questa cosa gli ha permesso di andare avanti. Lui stoicamente sotto le telecamere ha deciso di continuare a provarci e ce l'ha fatta, è stato beccato soltanto dopo. Quella è stima totale. Minchia. Molto bene, posso solo dire. Vabbè, insomma, io direi che fortunatamente non siamo Magic, fortunatamente, ecco, il peggio che ci può succedere è sto tipo tedesco che, secondo me, ha creato quella situazione in maniera del tutto fortuita. Adesso poi se tu mi dici che ha barato anche in altre occasioni, comincio a dubitare anch'io, però mi sembra una di quelle situazioni per cui sei un maestro della strategia e a sto punto vinci perché sei forte, oppure... Cioè, non puoi fare una cosa tipo, ah, aspetta, c'ho due snare in mano, faccio finta di mettere giù un'agenda, ma uso il quarto click per avanzarla. Il judge mi dice che non posso farlo e sicuramente non mi dà il game loss, perché anche questo era una roba che dovevi mettere, come dire, organizzare mentalmente e dire, ma cazzo, mi prendo un game loss se mi beccano. Ma che te frega, sei in bracket con una win. No, non mi hai convinto. Allora abbiamo un ospite, attenzione, ci è venuto a trovare un ospite a sorpresa. Un ospite a sorpresa, Costanza. Ciao, chiunque sia. È una bellissima ragazza che ci è venuta a trovare sapendo che siamo due bellissimi uomini. Però mi sa che adesso se ne sta per andare o no. Rimani a parlare con noi? No, vai, scappa, fuggi. Oh, rimane. Stiamo parlando di Netrunner. Sono ferratissima in materia, tra l'altro. Io, vecchio, è dentro un bel po' nella questione. Niente, no, ha già abbandonato. Ho fatto la mossa nerd e si è dileguata. Molto bene. Non voglio sapere qual è la mossa nerd. Si sarà tirato sugli occhiali col pollice. Ci ha portato la torta. Ma è finissima questa cosa. Che succede? È una festa? Una sorpresa? Buon anno! Yeah, buon Natale a tutti! Auguri! Viva la Madonna! Viva la Madonna! Si può dire viva la Madonna? Ma sì, beh, guarda, se ti sta simpatica, sì. Sì, esatto. Ma non ho capito, è una torta per celiaci? Sì, l'ha detto prima. Sì, no, giustamente aguzza l'orecchio nel momento in cui c'è una ragazzina. No, più che altro, non fregandomene nulla di Netrunner, almeno mi ascolto cosa succede nel resto del mondo. Almeno non mi sento sola. Brava. Vabbè. Insomma, il Worlds a quanto pare non è un argomento di quelli che proprio abbiamo seguito tanto. Io ho seguito solo la finale. E mi ha colpito molto il mazzo Jinteki, quello Super Net Damage, anche se non è stato il vincitore. E gli altri due mazzi, cioè quelli del vincitore, vabbè, sì, un classico era. A me Blue Sun è piaciuto tantissimo, cioè quando toccava. Vedi, questa me lo son perso, dai, racconta. Ah no, c'è poco da raccontare, è un Blue Sun giocato su tipo, adesso non mi ricordo più chi era, se era Team o un altro. E niente, le giocate che faceva, metteva giù Adonis che poi si riprendeva, girava cartone, le saliva, quindi praticamente il runner era confuso perché non sapeva mai quali ice erano in quale posizione. Certo. Anche questo è un gioco. Diciamocelo, adesso è il momento delle corde. E si è visto perché ogni corda ha un suo modo di giocare diverso e che fa anche ognuna di queste fa delle gran figate. Quello che non si vede ancora è delle gran figate al lato runner. Dai, aspettiamo il mega data pack Anarch, vedrai che esce fuori della gran bella roba. Soprattutto secondo me vedremo un casino la meccanica bad publicity molto più utilizzata. Sì, infatti anche, cioè vorrei vedere più, mi sembra di vedere il runner molto più in difesa di quanto dovrebbe essere, a cercare sempre di controbattere le mosse della corpo quando dovrebbe essere il contrario principalmente. Sì, le corpo sono sempre più proattive, cioè gli ultimi datapacchi hanno dato una quantità incredibile di azioni contro il runner, contro i quali il runner può fare veramente poco, nel senso che ha bisogno di troppe risposte diverse, mentre le risposte vuol dire sostanzialmente diluire di molto l'aggressività del matto, che appunto le pone, come dicevi tu, in una condizione proprio a guscio quasi totale, sempre, qualsiasi sia. Ma cioè, aspetta, però, le risposte quali sono? Sono tutte quelle legate al flatline, cioè risposta al net damage, risposta al mid damage. Beh, parliamo di reverse account. Per quella non c'è neanche una risposta se non ne compare ancora di più l'economia. Parliamo dei nuovi ice sempre più costosi da passare e oltretutto con effetti sempre più pesanti a lungo termine. Sì, questa è una cosa cioè, che se ci fate caso, ragazzi, sono 6 data pack che non escono in Enderan e basta, tranne il Mythic e robe simili. Escono sempre ice che pestano, picchiano forte e addirittura adesso queste conseguenze, come nel caso di Will of the Wisp e tanti altri, non sono neanche più soltanto degli ice, e non solo, nel caso di Reverse Account addirittura non sono neanche più trappole a trigger, e il runner in tutto questo non ha assolutamente nulla, nel senso non ha ricevuto rig economicamente più efficienti, non ha ricevuto programmi, che cazzo ne so, immuni dal trashing. È vero che ci sono, cos'era, la friggitrice mi sembra, che rendesse, no, la friggitrice era il grimorio, la friggitrice del grimorio che ti evitano il trash, però oggettivamente non sono vere risposte a tutte quante queste mestizie, sì, anche perché queste mestizie sono diffusissime e splashabilissime, mentre il runner è sempre strettissimo. Cioè, al runner mancano carte come Kraken, ma che possa effettivamente utilizzare. Perché, per esempio, Kraken è una carta che sposta il gioco del corpo, eliminando degli ice, ma purtroppo, per come adesso, Kraken è inutile. L'unica cosa che può fare il runner adesso è correre, sperare di, per esempio noi, spomillare, poi togliere delle carte, ma anche lì non funzionerà sempre, va a culo. Non ha trucchetti ma per spostare effettivamente. C'è anche da dire che un runner nel momento in cui vede l'identità è telefonato, cioè sai precisamente cosa può fare. Una corporazione manco per il cazzo. Sì. Perché è sempre coperto. E comunque c'è un problema intrinseco al gioco che è legato agli ice, cioè l'avvento di nuovi datapack sicuramente farà arrivare dei nuovi ice e quindi aumenterà il livello di incertezza da parte del runner nel momento in cui fa la run, cioè più è grande il parco degli ice e più è grande l'incertezza che il runner deve avere nel momento in cui runna per la prima volta. Da qui arriviamo al ciclo, che secondo me è una gran cosa. Sì, sono d'accordo. Viva il ciclo! Però comunque sono tanti, ci sono tanti cicli, comunque rimarrà sempre una grossissima incertezza. Il ciclo è sempre una grossa incertezza. Quindi vuol dire che c'è bisogno. Ma a me fa paura quando parla così. Certo. Ma voi col meciclo intendete quella questione che ogni tot anni escono fuori 4 carte in croce, giusto? No, ogni tot anni le carte, le prime 2 espansioni vengono tolte. Esatto. Ma è che sia estremamente funzionale al progredire del gioco, perché come stiamo vedendo c'è sempre di più il rischio espansione dopo espansione che, nonostante il netrunner sia molto bilanciato, si tende a cristallizzarsi su certe tipologie di gioco, certe meccaniche, certe sinergie. Scavando via queste sinergie è chiaro che porti ad una forzatura del meta, che chiaramente in assenza di certe carte spariscono certi mazzi. Pensiamo soltanto a NBN Fast Advance, per dirne una, ma veramente non è per dire quella, è per dirne una a caso, anche soltanto HB con chip ice tassanti. Sono tutte quante delle meccaniche che andranno a sparire in favore di altre meccaniche che al momento non sono inefficaci o inefficienti, sono però comunque un'alternativa peggiore. Quelle diventano l'alternativa migliore o quantomeno diversa, perché si sta parlando di pool di carte che ancora dobbiamo conoscere, creando di fatto una varietà veramente veramente favolosa, una varietà che un gioco di questo genere ha bisogno, anche perché, ragazzi, non stiamo parlando appunto di Magic, questo qui è un gioco in cui la conoscenza del meta e la previsione di 2-3 turni dopo e l'informazione che tu puoi conoscere con una run su R&D cambiano tantissimo il tipo di gioco, queste sono importantissime. E con l'aumentare del pool delle carte in maniera così grande, tutte quante queste cose vanno a mancare, rendendolo di fatto sciatto. Cioè, tu non cercherai mai il mazzo interattivo man mano che aumenta le carte, cercherai sempre di più il mazzo che ha bisogno di meno interazioni possibili per poter giungere al risultato. E Netrunner non è questo. Domanda: secondo voi è possibile che ristampino delle carte per non farle uscire totalmente dal gioco? Sì, no, ma gioco? Mi pare fosse stato annunciato che sostanzialmente quando ci sarà il ciclo verrà fuori un set, tra virgolette, di stampa, che a me viene da pensare, considerando un pochino le tempistiche, che potrebbe essere, chiaramente non riguarda questo ciclo qui, ma riguarda il prossimo, il famoso che cosa ci sarà insieme ad NBN, se dovesse essere adesso. In cui appunto. Anche perché poi finiscono i deluxe, cosa fanno? Esatto. Lì ci sarà una ristampa di fondamentale, oppure di ciò che loro vogliono sostanzialmente, testando e pretestando, ciò che loro pensano che sia molto importante portare avanti, per una questione appunto di bilanciamento, e quello ci sarà. Io personalmente, alla fine, io per come penso che, cioè quello che penso che possa dare al gioco è un rollout appena finiscono tutti i deluxe, cioè appena ogni fazione è stata servita, tutto quello che c'è, cioè la prima fazione che è stata servita, tutto quello che c'è dietro, tipo Accretion and Control, per quanto mi riguarda potrebbe tranquillamente sfancularsi, compreso il core set, e qui dico una roba veramente tremenda, ma secondo me nel momento in cui fin tanto che esisterà il core set, Netrunner non potrà cambiare aspetto più di tanto, perché il core set ha le carte forti, fine, punto. Ha Astroscript, ha Scorched, ha tutto quello che serve. No, ha Scorched e poi esatto. Come, scusa? La scritta del primo ciclo. No, ma infatti ho detto Astroscript e Scorched, non ho detto la prossima. Astroscript, ho capito, la Plascript, sì. Astroscript, Scorched, Sucker, Sansan, Sucker, Corroder, Sansan, cioè ci sono quelle X card che vanno sempre. Sì, le identità super forti, tipo che Desperado, cioè Desperado. Desperado, sì, veramente. Ecco, io è per esempio la carta più, la console più forte, altro che sicuro, sì, quello che è, ma Desperado è una carta fortissima. Sì, un'altra cosa che secondo me, cioè che ho sentito tutti molto preoccupati, è andranno via le identità, ma a me non me ne fotte un cazzo se va via Kate, anzi piuttosto sono contento. Non è detto che vadano via le identità, perché lì si parlava sostanzialmente di pool di carte, le identità non fanno parte del pool di carte. Quindi non è detta questa cosa. Beh, dai, se però fai il rollout il core set, va via anche Kate, Gabe e Noise, che posso solo essere contento. Cioè, il giorno che facciamo un torneo con il core set escluso, sono contentissimo, perché secondo me il gioco... Non è assolutamente una brutta idea del rollout, poi però si cala un po' nel famoso effetto magic dei vari... formati, che insomma non è fantastico. È comunque vero che è una cosa che bisogna fare. Però io aspetto fiducioso. Cioè, la negatività di fondamentalmente Magic è soltanto legata a un discorso economico. Esatto. Cosa che Netrunner comunque non esiste, perché progrederesti lo stesso, spendendo lo stesso numero di soldi e comprando lo stesso pool di carte. È molto diversa come cosa. Ma poi cioè Magic all'inizio era bilanciato come la dieta di un americano, nel senso che aveva tutte quante delle carte, cioè gli spoiler, terre doppie, cazzi e mazzi, fondamentalmente non giocavi solamente con quelle e potevi campare tranquillamente. Poi tutte le espansioni hanno appiattito un pochino la questione, quindi risultava obbligatorio tagliare fuori il set base, diciamo. Invece Netrunner, secondo me stiamo parlando un po' del sesso degli angeli, perché non, mancano ancora quanti anni? 4 prima del giro? 2016? No, 2017. Posso anche essere già morto, benissimo. Allora andiamo avanti la prossima rubrica, anche fosse 2016, sono 2 anni, sai quanta roba ne passa sotto i ponti. Posso diventare campione di Ticket to Ride, esatto, barando naturalmente. Andiamo Bene, allora io vi ho proposto sempre nella scaletta se volevate. Ma facciamo un intermezzo musicale, che abbiamo già rotto troppo le palle ai nostri ascoltatori. Sì, mi sembra giusto. Passiamo. Le palle. Basta. Cioè, non si può più dire una mezza forma anatomica di un uomo di una donna, è incredibile. Dai, quindi cosa ascoltiamo? Qui Noah mi sa che ha qualcosa da dire. No, io ho buttato su Google, non sai che non mi ricordo nemmeno cosa ho scelto. Lo so io cosa hai scelto. Vai. Secondo me ha scritto tipo delle parole, ha scritto delle carte di Netrunner su YouTube e ha visto cosa usciva fuori. Sì, è vero. Assolutamente così. Sì, è assolutamente così. Però non su YouTube, ma su Google. Ah, ok. Sì, no, è complicato da dire. Esatto. Quindi è diciamo una canzone che ha a che fare con la parola scorched. Esatto, no, ma proprio scorched earth, se non ricordo male, giusto? Scorched earth policy, per la precisione. Dai, picchia un po', schiaccia play. Yeah. Fede, questa era Frontier Policy. Sicuramente mi aspettavo qualcosa di un po' più in linea con la mia prima proposta, invece hardcore, che ho dovuto staccare le cuffie e andarmi a fare un giro, però va bene. Hardcore? Non lo so, non lo so che musica è. Hardcore. No, no, ancora una volta, no. Fermate Francesco, tappati la bocca, basta, non lo sopporto più. Mi dici che dici che tipologia di musica era quella lì? Ah, un semplicissimo, puoi anche dire metal, basta. Ah, metal, beh, che cazzo ne so, io comunque, tutto quello che viene fatto con strumenti veri a me non mi compete. Ah, ma non era rap? No. Sì, era hip hop, anzi era un blues. Va bene, mi avevo trapparato per bene le orecchie, ho fermato per fortuna Francesco prima che dicesse qualche genere di porno. Ecco, sì, di porno. Trapanato. Ah, ma perché? Continuiamo con... Ok, vi avevo proposto, quindi, dicevo prima, vi avevo proposto le 5 carte che pensate saranno più usate in futuro, quindi quali carte che avete visto spoilerate saranno effettivamente giocate, quali invece sono da team player del cazzo. Federica, tu a queste cose gli devi dare un nome accattivante, cioè a noi il telespettatore nel momento stesso in cui vai a spiegare sta roba. Aspetta, no? me lo invento dai, al volo. Devi essere scoppiettante, frizzante. Oversight AI. Wow, bellissimo. In cui le 5 carte spoilerà. Scusate. 3 steps ahead. Molto bene. Allora a sto punto, visto che sono 5 carte e visto che dobbiamo guardare nel futuro, Precognition. Boned. Va bene. Hux. Dai, allora comincio io, che so che voi tanto i compiti a casa non li avete fatti. No, io ce l'ho per piacere, se mi dite la mia mi fottete tutta la vita. Per una volta che ha fatto qualcosa, dai. Facciamo no, però aspetta un secondo, non sai che sono 5 carte. No, ne dico una, ma ragazzi, siamo in 4, anzi 5 con la ragazza della torta, se dobbiamo dire 5 carte a testa sono 25, non ce caviamo più. Va bene, dai, allora vai con la migliore scommessa. Allora, la mia, che secondo me è una gran ficata, ho guardato sui prossimi spoiler e ho trovato questa agenda dell'NBN a costo 3, un puntino agenda, e dice che quando tu scorri questa agenda, che si chiama, aiutatemi con la pronuncia, License Acquisition. Bravo, ci sei piaciuto. Installate e rezzate un asset o un upgrade dagli archivi o dall'HQ, ignorando tutti i costi. Sì, ho capito, ma il problema è questo, che cosa togli per mettere quella 3.1? Cioè, secondo me non verrà tanto utilizzata, non ti voglio smontare al volo, però io aspetta, l'ho vista e aspetta che cambia il ciclo e vedi. Va bene, tu mi hai detto, mi hai parlato 7. Del futuro. Oh, io il futuro vedo davanti 2 anni, sono un giocatore di scacchi. Ok. Sì, ma io in realtà sono già campione di Ticket to Ride, non mi interessa più questa gara. Luca, tu ce n'hai qualcuna oppure hai snobbato completamente la scaletta? Guarda, secondo me la carta più. Stai improvvisando, è chiarissimo che stai improvvisando. No, allora, ce ne sono tante, qualcuno di sicuro utilizzo. Però quella che proprio mi dice wow, che figa, questa è una carta da un design fighissimo, mi piace proprio come l'hai fatta, il troll. No, sì, ok, è bella. Troll è bella perché non ha la sabrutina. Non ha la sabrutina. Però ha talmente tante condizioni di utilizzo, cioè di uscita da quella cacchio di situazione, tipo vabbè, intanto mi devi fare una trace e la devi vincere. Ok, hai vinto la trace. Adesso mi trovo a dover... cosa devo fare? Devo pagare 2 oppure perdere un click per riuscire a superare il troll? Se no mi becco l'enderun. O perdo un click o enderun. Quindi... Ah ecco, perdo un click o enderun. Quindi per se ho superato la trace, cioè, se non ho superato la trace, devo perdere un click per continuare ad andare avanti. Bah. Non penso verrà molto giocata, te la boccio. Ma la boccio. Invece tu metti le combinazioni con carte che per esempio line grid. Che è una cosa che tu passi e vinci il 3 e sei a posto, perché tanto non può precare Sabrutin. Non c'è Sabrutin. Non c'è Sabrutin. O con altre cose, insomma, per dei click. È una carta, tanto ben fatta, manca di... Diciamo la rende sicuramente più interessante di tutto il resto. No, sicuramente forse io sono più focalizzato su quello che effettivamente vedrà gioco nei mazzi Tier 1. Però sì, la cosa buona è che tutte le volte che ne incontri l'unica certezza che ti dà è che genererà una trace. E questo potrebbe, e questo in combo con tutte le volte che succede una trace, succede quest'altro, potrebbe adiuvare. Chissà se ci saranno sufficienti carte da poter giustificare la creazione di un mazzo che si attiva quando si generano delle trace. Vediamo. La mia proprio in cima alla lista delle io addirittura proprio preso bene dal fatto che l'avevo proposto io, ne ho fatte 5 per il runner e 5 per la corp, ma vi dico solo la prima del runner, che secondo me sposterà parecchio, è Wanton Destruction, che è il wannabe account siphon degli Anarch, nel senso che è comunque una tipologia, cioè ha 4 di influenza, quindi la vedremo raramente splashata se non in mazzi che girano intorno a quella carta, e con Quetzal o comunque con qualcuno che può che ti dà la sicurezza di entrare in primo turno. Ma cosa fa questa carta? Allora, Wanton che coglione che sei. Wanton Destruction, cito, adesso te la trovo. Allora, adesso te la trovo. Okay. Adesso ti stai un po' attaccando un po'. Fai la run sulla carta. L'ho trovata io. Allora, è una run saboteggia a costo 1. Allora, costa 1. Fai una run su HQ. Se ha successo, invece di accedere alle carte, puoi spendere dei click, qualsiasi numero di click che hai, per trasciare una quantità corrispondente ai click che hai sprecato di carte dall'HQ. Il che vuol dire che verrà fatta di primo turno, chiaramente. Cioè, di prima run, e plausibilmente nel secondo turno del runner. Quindi primo turno setup, secondo turno entro, cerco di spaccarti il più possibile dalla mano. Qual è la cosa figa praticamente di questa carta? Figa la meglio. Che le carte vengono scelte a random. Ah, sì. Fino adesso, tutte le carte che dovevano essere scartate dal corpo erano state fatte l'accesso. Oppure sceglieva il corpo e quindi alla fine non cambia un cazzo. Qui invece Arando, sì. Finalmente c'è un effetto interessante. Molto. Posso farvi una domanda? Scusatemi, adesso io stavo guardando le figure dei vari delle carte che stavamo citando e via dicendo. Questo Wanton Destruction e anche altre carte hanno sopra l'influenza sulla destra un esagono con un triangolo nero. Sì. Sono quelle che escono fuori dai booster draft. Ah, ok, scusate, non ho mai visto un booster draft. No, ci piace ricordarlo così, nella sua ingenuità. Oh. Va bene, e per quanto riguarda la corp, io ho un'altra carta che secondo me verrà molto molto molto utilizzata, e però purtroppo probabilmente solamente da una fazione, ovvero un'offerta che non puoi rifiutare. An offer you can't refuse. Praticamente cosa dice? Quando giochi questa carta obblighi il runner, cito il runner nel turno della corp, a fare una run in uno dei tuoi server che tu scegli. Se lui si rifiuta di fare questa run, prendi la carta che hai usato come evento e te la metti a punti e ti vale un punto agenda. Se invece lui fa la run, non può fare jack out. Quindi fondamentalmente metti nella posizione il runner di dire: ok, adesso cosa fai? Mi dai un punto agenda oppure runni qui che probabilmente so già che ti uccido? Oppure so che non ce la fai. Oppure... In che senso so che non ce la fai? Ah, non deve essere successo. No, non deve essere successo. Tu basta che la fai e non puoi fare jack out, quindi non puoi uscire da quella run. È chiaro che però se ti becchi un end run. Oppure se sei RP e dichiari un remoto e hai fatto un punto. ecco, questo è particolare. Questa, ecco, vedi subito, Francesco ha tirato fuori l'inghippo. Stavolta non la dico, Sei, esatto, ha tirato fuori l'inghippo, non la dice. Sei RP. Dichiaro che fai una run sui remoti. No, signore, è un central server. Ah, central server, ok. Mi mancava il testo sotto, andavo così a memoria. Sì, vabbè, ma a te non ti dobbiamo far giocare nel run. Tu sei sempre l'italiano, cioè che è sempre lì, basta. Da ora in poi giocherai ai My Little Pony. Via. Ma comprare subito le carte. Che ci scherzi, ma My Little Pony è il futuro del gioco di carte, il futuro della maggior parte dei negozi di giochi. Ma tu ci scherzi, Luca, ma io ci ho giocato My Little Pony, per davvero. No, lo so che ed è un gran gioco. E dice anche è un gran gioco. Vabbè, boh, adesso. No, guarda, provalo. Ha un sistema notevole, che poi la skin sia quella, vabbè, però il sistema è... Va bene, rifaranno My Little Pony sotto forma tipo My Little Dragon e ci giocheremo. Molto bene. Va bene, io ho detto le mie due. Tu, Luca, c'hai anche qualcosa lato corp oppure solo runner? Ma lato corp c'è tanta troppissima roba. No, lato corp l'ho già detto. No, scusa, ho sbagliato. Lato runner. Beh, lato runner c'è... Drive-by è molto figa. Sì, soprattutto con se hai delle modo di fare delle robe tipo expose e sapere con certezza dove vai a distruggere. Drive-by è veramente pesa, perché bypassa una regola fondamentale del gioco, cioè tu devi entrare nel server per avere accesso alle carte. Esattamente come Quest Completed. Quando la giochi è veramente un game changer. Ci sarebbe anche quell'hardware che secondo me non è devastante, però è un bel gioco. Ecco, queste sono le carte pro attive del runner che mi interessano, tipo l'Archives Interface, che è un hardware, entra in archivi, ti prendi una carta e la rimuovi dal gioco. Parliamone. Invece di accedere, quindi funziona anche contro Jinteki, per esempio la Shock, CQ. È sicuramente un hard counter contro Jinteki, nel senso che run dopo run ti tolgo tutto quello che mi fa male e poi entro. Va bene. Ma è anche una carta che ti permette di rimuovere certe carte che poi il corpo non si può più rimettere nel mazzo, come per esempio Jackson Howard. Poi dopo che ha scattato, non so, gli scorci, te li vai a togliere. Ci sono delle maniere. C'è queste carte qua che escono, saranno sicuramente più proattive, saranno i trucchetti che stiamo aspettando, ecco a proposito di trucchetti, vorrei citare Jinteki Biotech. L'avete letta? È un trip. Io no. Allora, questa rubrica si chiama Spieghiamo a Luca il futuro di Netrunner. Scusa, no a Luca, a Noah il futuro di Netrunner. Allora, Jinteki Biotech praticamente è un'identità che è una etrina, nel senso che quando la metti in gioco la sua abilità non c'è, fondamentalmente ha solamente un'abilità di potersi trasformare in qualcos'altro all'inizio del turno del primo turno della corp. E quindi puoi decidere a seconda di chi c'hai di fronte che cosa diventare. No, ok, ho visto le carte intanto mentre stavate parlando. Jinteki Biotech è un inglese della Jinteki 4515, la cui peculiarità è questa: è composta fondamentalmente da tre carte. Queste tre carte hanno lo stesso dorso, che si chiama appunto Jinteki Biotech, che dice: prima che tu cominci il tuo primo turno puoi scambiare questa carta con una qualsiasi copia di Jinteki Biotech, e l'altra abilità è click click click, gira questa identità. Ora, queste tre carte hanno un dorso in comune, che è questo che ho appena citato, Jinteki Biotech, esatto. Poi hanno il dorso, l'altro dorso, fondamentalmente l'altra parte, con un'abilità diversa l'una dall'altra. Il che cosa vuol dire? Vuol dire che una volta che sono state svelate le varie D, quindi io ho rivelato che sono un Jinteki Biotech e tu hai rivelato che sei Andromeda, non lo so, una caso, a quel sì. punto io potrò decidere quale delle tre Jinteki Bio, con quale delle tre Jinteki Biotech giocare. Trasformarle. E questo cosa vuol dire? Lo capiamo andando un attimino a leggere che cosa fanno i dorsi. Un dorso è The Brewery. Praticamente dice, come abbiamo detto, con tre click, quindi rinunciando sostanzialmente ad un turno, ma in qualsiasi momento del gioco, guadagniamo questa abilità, cioè abbiamo questa abilità attiva di girare l'identità. The Brewery dice, quando giri questa identità, quindi da Jinteki Biotech la fai diventare The Brewery, fai due net damage. Il che cosa vuol dire? Fondamentalmente che se ho impostato il mazzo in maniera tale che posso fare anche un po' di net damage e mi trovo nella possibilità di poter vincere facendo di due net damage, e con finisher. Tre click giro l'identità, l'abilità dell'identità, se l'ho scelta all'inizio, se ho scelto che quella era la mia idea all'inizio, posso fare questi due danni. L'altro è The Tank. The Tank dice, quando giri questa identità, rimescola completamente gli archivi in R&D. Nota di redazione, spanata senza senso. E quindi cosa vuol dire? Che se all'inizio ho visto che sono contro Noise, per dire, mi guardo le mie tre identità, la terza la stiamo ancora citando, quindi dici, cosa faccio? Faccio The Brewery e gli faccio due danni, oppure The Tank e mi rimescolo gli archivi? Guardiamo, c'è Noise, boh, facciamo che ci possiamo rimescolare gli archivi sostanzialmente al costo di un turno. E da questo punto noi guadagniamo questa abilità. L'altra è The Greenhouse, che dice, quando giri questa identità pianti 4 avanzamenti su una carta che può essere avanzata. Il che cosa vuol dire? Sostanzialmente, come prima, a 3 click per una volta io posso fare una fast avanzata sostanzialmente da 4. È chiaro che qui la carta deve già essere installata in qualche modo, oppure se non si tratta di un'agenda posso overavanzare qualsiasi cosa, che cacchio ne so. Quindi dico, non lo so, sto giocando contro un Andromeda, probabilmente sopra una riga Anarch, d'accordo, facciamo che il mio Adrian's Wall diventa un Forta 11. Mi scelgo all'inizio del turno questa, a un certo punto userò tre click e attiverò questa abilità. È chiaro che il vantaggio è la scelta, poiché c'è un grosso svantaggio intrinseco, che è un po' quello tra virgolette, se vogliamo, che è lo svantaggio di Andromeda, ovvero che non è un'abilità ongoing, che ha più effetti durante la partita, tutti quanti questi effetti sono shot, però sono decisamente notevoli. Beh, ti rimescoli l'archivio, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, smodata. Domanda, ma se io compro la mia espansione, mi ritrovo dentro, secondo voi, 12 carte di questo tipo? No, ti ritrovi dentro 3 carte, esatto. 3 carte che sono queste 3 qua. 3 carte perché così? Sì, perché il dorso sì, scusatemi, è sempre Jinteki Biotech, e invece il front, diciamo, è o The Brewery o The Tech. Non è che ne stampano 3 come le varie identità classiche. Assolutamente quindi alla no. Fine... Infatti, probabilmente a uno dei designer a un certo punto è venuto un'idea brillante di dire: ehi ragazzi, risparmiamo dei soldi. Una cosa del genere, insomma, meno male. Molto figo. Da questo si è evinto che quando mi avete passato il link dei vari spoiler io ho guardato solo i primi, ma non per altro, perché ho sbagliato e non mi ha caricato tutto il resto sotto, e niente. Adesso dai la colpa alla tecnologia, sempre. Oh. Sempre la colpa alla tecnologia. Va bene, io direi che abbiamo tediato i nostri ascoltatori per sufficiente tempo, soprattutto dopo la mossa del primo stacchetto e del secondo stacchetto, due pezzi assolutamente scaccia essere umano. Beh, io posso parlare per il mio, però insomma anche Scorched Earth Policy non era proprio super easy. Beh, ma no, era quella musica da camera. Esatto. Che ascolti sorseggiando brandy. Esattamente. Sì, ma camera oscura con il sintonio. Boh, questo silenzio, ma è stato andato tutti. Sì, noi proprio stiamo chiudendo. Noi stiamo chiudendo, quasi quasi ti chiudiamo in faccia proprio come il mono rosso. Cheat su cheat. Beh, che dire, È quel momento finale nel quale non sai tipo cosa dire, tipo vabbè, allora buon Natale, buone feste. No, cioè, ciao, mi raccomando, non esagerare col panettone, quelle cose lì. È stato bello, rifacciamolo. È stato bello, rifacciamolo. Sì, buone botte. Ecco, interventi dall'esterno che La prossima volta potremmo farlo tutti quanti in un'unica stanza, così almeno c'è magari un po' più di ritmo e vi dicendo. Ma certo, volentieri. Vi aspettiamo allora, vi aspettiamo. Sai dove la facciamo? A Piacenza. Tutto avviene a Piacenza. Amici di Piacenza, ricordatevi di segnalare nei commenti i luoghi in cui giocate Netrunner. Oppure di non segnalarli, altrimenti noi arriviamo. Noi siamo pronti, ragazzi. E voi? Oh, sfida! Noi siamo pronti. No. E voi? Potevamo terminare in maniera pacifica, un bel finale, cioè, potremmo fare tipo Piacenza 2015, il caldo tournament. Ecco. Naturalmente ci deve dare il carico, eh? Adesso certo. Va bene, dai, chiudiamo qui. Un ringraziamento a tutti quelli che sono arrivati fino alla fine. Un grazie a Francesco, un grazie a Luca, un grazie a Noah per la loro presenza. Grazie a voi. E ci vediamo alla prossima run. Ci sentiamo. Ciao. Ciao. I've seen things you people wouldn't believe. Maintenance mode turned on. Jack out.